Ben ritrovati, ben ritrovate, Fuga del Gatto, domenica, che giorno è? Tre, Tre, tre, ce la puoi domenica, fare, tre, tre. sì, beh, sono un po' confusa, anche Beh. perché vi sveliamo che stiamo registrando, dai, diciamolo, Ah, stiamo così? registrando, Io sì. facevo la gnorri. No, ma Ah, ma perché come bello, sei in abbiamo, diretta. no, vabbè, ma abbiamo una C'è un scusa. C'è motivo, il motivo c'è un buon perché in motivo. realtà mentre voi ci state ascoltando noi saremo alla passeggiata di Carnevale in difesa degli spazi autogestiti a Firenze, insomma è una valida scusa Sì, direi sì, per non sì. esserci. E anzi, voi non avete scuse per non esserci. Per cui Esatto. presentatevi. E quindi portatevi la radiolina al corteo e ascoltateci mentre siete al corteo. Addirittura come il mio nonno la No? partita. Il mio Infatti, nonno fa. infatti. Vabbè. Le cose importanti, no? Certo. Cioè. D'accordo, bene. Allora direi che Oh, questa ma finta domenica scusa, 3. non No. abbiamo detto. Oh, È ma. tornata la Virgi! Ah, ciao, è tornata la fimpa, è vero, non La se ne è pimpa accorto è nessuno, nemmeno tornata! io, quindi. Ah, sì? Dobbiamo fare un po' di Hai feste. ragione, sì. Beh, ti ho tenuto la sedia in caldo, ti ho Brava, tenuto brava, tutta la ti ho regia a sentito molto modo. bene, molto meglio senza di me, tutto molto più No, serio. non ne permetterei E mai. brava, brava, Mari, sì. Eh sì, perché sono state delle domeniche un po' intense, appunto, di attività, così, ecco, di altre attività. Per cui, niente, non ci sono potuta essere, però adesso rientro in campo, come diceva Lui, lui, quello. quello. E proseguiamo, perché boh, magari ne faremo anche un'altra poi. Però, diciamo, proseguiamo con un tema che avevamo già aperto un po' di tempo fa. Non troppo tempo fa, in realtà. Noi non siamo di quelle brave e numerano le puntate perché non ce la possiamo Sì, fare, ma mettono ti fuori. Ma questa è la immagini? puntata numero 64. Noi non sappiamo Ma contare. dai, Per ma cui infatti. niente, perché le zampe, cioè tipo le zampine fino a 10, Il 8, pallottoliere ci va. fino a 8 le zampe del wombat. Per cui noi non sappiamo contare, non so che puntata era, però vi posso dire che abbiamo già aperto il tema della musica abusata. Ecco, l'ostico tema della musica abusata, perché tutta quella musica classica che voi avete sentito, risentito nei film, nelle pubblicità, appunto nelle pubblicità radiofoniche, usata come jingle, usata come per tutti i tipi di advertising, Oh io là uso là. advertising, e però magari, ecco, non sapete, che ne so, non sapete in realtà che pezzo è, magari, no? L'avete sentito mille volte, ah, ma quello lì di, ah, ma quello della pubblicità del sapone, ah, ma quello, per cui noi Il l'abbiamo. famoso pezzo del sapone. L'Ajax, la Carmen con l'Ajax è proprio è brava, brava. Per cui quello lo riconoscono anche i cani, però insomma ci sono alcuni un pochino più magari così che uno non lo sa che era di chi era e noi ve lo diciamo perché tante volte uno rimane col dubbio nella vita, Cultura no? generale. Cultura generale, per cui anche oggi abbiamo scelto una serie di brani che sono stati utilizzati tantissimo e quindi sono veramente abusati e a volte scominciano poi no, attraverso l'uso che i media ne hanno fatto così in questa storia recente. Hanno cominciato a assumere addirittura proprio dei significati diversi da quelli che avevano magari alla loro, proprio significati estetici altri, sono diventati quasi così, icone a sé, quasi estrapolati magari dalle opere da cui provengono, piuttosto che magari davvero dal significato così, proprio simbolico della musica che Loro avevano. malgrado, Loro, direi. malgrado, a volte si sono staccati dall'opera stessa e sono diventati, grazie alle pubblicità o grazie all'uso che magari così, con una musica di un film ne è stato fatto, sono diventati iconici e molte persone poi magari non sanno appunto da dove venissero, qual è la loro origine. Quindi ne parleremo, a volte film, a volte pubblicità, a volte tutte e due. Direi di partire con il primo pezzo, facciamo così che non li annunciamo, li facciamo sentire e poi diciamo cosa sono. Sì, il primo pezzo, tra Lo l'altro, riconoscete? siccome dura un po', ci Lo sta che ve lo sfumeremo. Sì, sfumeremo. lo Sì, sfumeremo. insomma, Perché è un po' per perdonateci. capire. Queste puntate sono un po' più perché sentire il pezzo che l'avete sentito un milione di volte per collegarlo insomma. Anche perché c'è questa cosa che sottolineavamo anche l'altra volta nella prima puntata della musica abusata, che comunque quando un pezzo l'hai sentito è abusato proprio perché oltre a cambiargli di significato e stravolgerlo in mille modi, ma ti fa l'effetto che non ne puoi più, cioè cioè, eh no, che certo. Non lo puoi più sentire. E quindi... poi non lo ascolti in realtà, no. Lo sei, l'hai sentito, è come se una cosa e vedi mille volte, non la guardi veramente, così l'hai vista mille volte. Sì, è un po' una tortura e quindi noi non vi tortureremo a lungo e vi sfumeremo un pochino, ecco. Però sentite, sentite se lo riconoscete. Si parte subito, bene. A bomba. Sì. Così, e vabbè, questo qui... Cos'era? Chi... Cos'era? Dai, bisognerebbe fare il concorso a premi. Cos'era? Chiamateci e diteci cos'era. Va bene, visti di se noi, era veramente, veramente facile facile per chi, insomma, un po' di musica classica c'ha un'infarinatura, per chi non ce l'avesse, era l'overture della Gazza Ladra di Rossini. Cioè Galzalada e Rossini, Overture. Il pezzo è veramente uno dei più noti della composizione, in realtà, che si chiama tutta così, la composizione in varie parti, ed è appunto un'opera di Rossini sul libretto di Giovanni Gherardini del 1817. Questa è una delle parti, la parte più nota forse, perché è l'inizio, ovviamente, e l'ouverture, appunto, ed è nota soprattutto, è stata usata soprattutto al cinema, ecco, è uno di quei pezzi legati molto al cinema, e beh, sì, anche alle pubblicità, però direi, ora non me ne viene in mente una precisa, però veramente il pezzo, cioè quello veramente... Non ti viene in mente perché sono troppi, sono tante, e poi perché io non c'avevo la televisione, non me lo sai, da piccola, figlia di una nazione, sì, libertaria, non c'avevo i canali, vedi, e quindi, vedi, ecco, adesso io faccio queste figure, grazie, mamma e papà, comunque, però vi posso dire che in tantissimi... Quando l'avete sentita, sicuramente vi è tornata alla mente, non vi può non tornare alla mente certe scene di film, perché davvero, esatto, io so che lei ama molto un film che porta questa musica, vero, signorina? Sì, sì, ecco. L'arancia meccanica. E è fatta un po' più, ancora più veloce forse, l'arancia meccanica, perché sì, ma era tutto velocizzato su arancia meccanica. Sì. E direi per gli amanti del cinema un po' più classico, invece, proprio questo pezzo qui, questa tranche, è in apertura da una delle prime scene di C'era una volta in America di Sergio Leone, la scena quella con i bambini, appunto, nell'ospedale, con tutti i bambini, con lo scambio. Quella è proprio iconica, è rimasta. E tra l'altro uno dei pochi momenti non originali, perché appunto le musiche di Leone solitamente erano di... come sapete, di Morricone, però ci sono dei momenti in cui ci sono anche dei pezzi non originali, tra cui questo. Quindi, ecco, veramente, veramente, come dire, ecco, è un pezzo che proprio si fischietta, appunto, non a caso è stato scelto, perché è molto, no, rimane molto, il tema è molto chiaro, è molto, i temi, perché poi ce n'è più di uno, sono molto... molto ricordabili, molto, no, come spesso in Rossini succede, molto pop in un certo senso, cioè rimangono proprio impressi, ecco. E quindi questa è una delle prime che appunto che delle più note. Proseguendo, invece, andiamo avanti con un altro pezzo che, come al solito, vi facciamo sentire e poi vi diciamo. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, perché qua stasera, cioè, ve lo dico, cioè, andremo come treni. Sì, oggi perché... è tardi. Sì, ma poi abbiamo tante cose da farvi ascoltare, insomma, non ha senso neanche troppo dilungarci, insomma. Bene. Sentitevi, beccatevi questa, un pezzo un po' tirato via perché l'hanno, giuro che non è colpa mia, volumi un po' a caso, sfumato. Abbassava dopo, vabbè, sì, comunque giuro. Tanto era per capirsi. Dai, sì. Ovviamente chi non l'ha riconosciuto veramente ha vissuto sotto un sassetto negli ultimi 50 anni, 120 anni. Sì, dai. Perché questo, forse non tutti sanno che... Questo era il Lago dei Cigni, cioè era un tema dal Lago dei Cigni, credo Morte del Cigno. Sì, secondo me, anche se non l'avete riconosciuto perché non vi ricordate di chi è, però e che voi cos'è. Sicuramente avete pensato, ah, è un balletto, perché questo, a parte usato per mille pubblicità, mille spot, ok, macchine, di tutto, però questo è proprio, cioè, come dicevi prima fuori onda, questo è diventato proprio l'archetipo del suono del balletto classico. Come lo è il Lago dei Cigni, perché tutte le volte in un film dobbiamo far vedere la gente che balla in un balletto lasio, è sempre il Lago dei Cigni, proprio il cigno, è diventato un po' perché è uno dei più famosi, uno dei più belli, sicuramente è proprio... Anche uno dei più usati, sì, proprio dei più riprodotti, insomma, dei più portati in scena. E la musica, appunto, del caro Tchaikovsky, in particolare in questo pezzo, è diventato iconico, proprio archetipo di quando si deve scegliere una musica per rappresentare il balletto classico, anche se non è per forza il Lago dei Cigni, si sceglie il Lago dei Cigni. Cioè è diventato l'associazione mentale proprio che viene, è questo. Molto, magari tanti non sanno che è tratto dal Lago dei Cigni, però... Si ricollega, il cervello fa il collegamento con la musica classica, perché nei film, nei cartoni animati, veramente ovunque, nella pubblicità, il collegamento è quello lì. E poi chiaramente tutti i film che parlano in particolare del balletto, della danza classica, in particolare per esempio appunto Il Cigno Nero di Aronofsky, che parla proprio della messa in scena del balletto. Del balletto in questione. Sì, ma anche quando ci sono quei film che non parlano assolutamente di tutto ciò, no. Ma c'è la figlia dodicenne che fa la ballerina, certo. E riborda e gli sì. Così, sì. Perché è proprio così abusato e strabusato e è diventato proprio il pezzo tipo, ecco, proprio davvero, si diceva prima, la score, cioè proprio quando c'è da fare il pezzo su... Ma già nel cinema muto, cioè quando c'era quando passava la ballerina nel film, il pianista faceva questo pezzo qui, faceva questi 3-4 accordi, proprio il leitmotiv. Cioè. C'è da dire che anche questo è molto orecchiabile. Io non so sì. se. Beh, poi... Tchaikovsky era proprio il king di questo, cioè lui riusciva a. No, non so a... poi se stavo pensando, è che magari non so se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso non so se è perché il pezzo già di per sé è molto orecchiabile, è molto mnemonico e quindi poi diventa facilmente abusabile, oppure se è il contrario, che è talmente abusato che ti sembra a te che sia forse un misto, non lo chissà. So, un po' di tutte e due. Questo tra l'altro rientra nella categoria musica per telefoni, perché vi ricordate avevamo fatto la cartella musica per telefoni, ecco, le suonerie del cellulare, questa è una delle suonerie, c'era già nei cellulari quelli ancora vecchi, se ve lo ricordate, nei Nokia, nei Madonna, Philips, sì, la mamma ce l'aveva, cioè veramente da nascondersi sotto il tavolo quando suonava. Suonava proprio bruttissimo, proprio con le notine proprio fini. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Sì, pi, sì, è vero. Faceva così. Se non rispondevi alla quarta, ti veniva la resisteria. Ti, perché era tremendo, sì. Questo sì. È un altro che sentiremo dopo. Questa è proprio musica per suoneria di cellulari. Bene, proseguiamo perché è tardi. Non vi sto a dire nulla, perché comunque c'è Tchaikovsky e Lago dei Cigni, sapevatelo. Bene. Abusatissimo. Ora il prossimo, qui ve lo dico, vi do un'anticipazione che un la Virginia non è sta sulla sedia. No, sta tremando i polsi. Attenti. Cercherò di essere breve, però non lo posso permettere. Di non emozionarsi troppo. Sto sudando. Eccoci. Thank you. ragazzi, qui non lo so. Allora, no, vabbè, cioè, sarò sintetica. No, è disse, vero. Disse, ci sono una serie di problemi qui, una serie di cose. Cioè, vabbè, io ci farò, vabbè, dovrei fare una puntata. Però ora cerco di essere così razionale, calma, e dire che, vabbè, se non l'avete riconosciuto, abbiamo un problema. Cioè, nel senso, io capisco che uno sente i pezzi e poi non sa, però questo, ragazzi, no, cioè, no, dai, no, vabbè. Cioè, va bene, cavalcata delle Valchirie, ovviamente, Wagner. Allora, qui il discorso sarebbe lungo, però per farvela breve, come dire, questo era già un pezzo che nell'opera stessa è molto breve, cioè è questo pezzettino qui, poi ritorna il tema, perché come poi saprete un giorno quando vi farò la puntata di 6 ore su Wagner, ai voi, il leitmotiv appunto, no, di Valchiria, queste note che ritornano poi tutte le volte che il personaggio ritorna, ritornano nell'opera, però diciamo questo pezzo è... Così, è proprio è questa parte che avete sentito, è tutto quello che si sente nell'opera. Cavalcata delle Valchirie di Wagner, perché è così famoso? Qui è il cinema che effettivamente l'ha popizzato, si dice, cioè l'ha reso iconico. Perché anche prima, ovviamente, data la natura molto, no, molto, molto forte, molto intensa, proprio da... il senso della cavalcata, no? Dovete pensare che nell'opera queste sono delle dee che scendono dal Valhalla per raccogliere i morti caduti in battaglia, li riportano su, quindi c'ha tutta una serie di significati fortissimi, simbolici e non, quindi già si presta, insomma, si prestava già prima che insomma che il cinema moderno, insomma, contemporaneo lo sdoganasse, però è sicuramente con il film Apocalypse Now che chiaramente assume quei significati postmoderni davvero, perché questo è un pezzo che davvero associato alle immagini del Vietnam che Francis Ford Coppola appunto decise di usare proprio per la sua forza, non a caso gli elicotteri, cioè c'è tutto un significato per cui, tutta una serie di significati per cui Coppola ha scelto sicuramente questo pezzo, però l'immaginario collettivo, ahimè, ai noi, lo collega a quello. Da quello, no, che è appunto la colonna musica di Apocalypse Now, poi da lì a cascata una serie di un meccanismo buffo di significati a cascata, perché da quel momento lì ha assunto quindi un significato, no, di guerra, di disperazione, di forza in un certo senso, no, di atrocità. E poi da lì, per tutta una serie di ribaltamenti spesso ironici, no? È stato usato anche in maniera appunto buffa, cioè partendo da lì, proprio perché Coppola l'aveva usato così, allora alcuni registi l'hanno usato poi nelle colonne musiche come invece presa di giro, no? Come questa musica così solenne, così violenta, così entrante, usata invece per disastri magari comici, proprio gags. Pensiamo infatti a... le scene di Blues Brothers. No, io infatti non ce la faccio, cioè no. Proprio forte di me io vedo i nazisti dell'Illinois, esatto, e poi c'è il significato altro, cioè non ce la faccio, esatto. Ma al di là di ovviamente c'è quell'altro, sì. Significato altro, però io vedo proprio la macchina che cade di sotto, certo, sì, proprio il crash, proprio il momento forte di me, sì. E poi c'è l'altro significato ancora, che è quello del, che però è un errore di giudizio storico, ahimè, però è entrato nella memoria collettiva associato al nazismo, cioè che Wagner, siccome i nazisti amavano Wagner, a suo povero morto ormai da tempo, quindi insomma non ha nessun... Però i nazisti amavano Wagner per una serie di ragioni, perché era il compositore, uno dei primi compositori che aveva rivalutato la mitologia, no? Tedesca, teutonica, e quindi il nazionalismo, anche se chiaramente loro avevano ribaltato completamente il significato del lavoro di Wagner, che insomma era veramente sulle barricate, sulle barricate con Bakunin, cioè anzi era un rivoluzionario, però ai lui, poverino, è passato alla storia come associato al nazismo, perché di fatto è vero che i nazisti amavano Wagner, così come amavano tantissimi altri compositori tedeschi e non. Però poi questo amavano assunto... anche la Gioconda, Leonardo, sì, appunto, da Vinci. Però non si è capito come mai la gente pensa che, siccome la gente è ignorante e pensa che Wagner sia stato un compositore così, l'hanno spostato di un secolo avanti, ha detto perché Wagner è nazista. No, non è così, cioè, lui era morto da parecchio, però a loro piaceva. E qui possiamo ringraziare anche il signor Woody Allen, che con il suo cinema divertentissimo quando sento Wagner mi viene l'istinto di invadere la Polonia. E qui va bene, ok, è una battuta ovviamente, che comunque è precisa. Sì, è precisa, perché in realtà ovviamente Woody Allen si riferisce al gusto dei nazisti, no, al povero Wagner che non aveva nessuna colpa. Va bene, smetto di difendere Wagner, però diciamo che poi questo significato, quindi il terzo livello, che è quello dell'associazione al regime nazista, porta poi di nuovo dei significati comici, sfruttati in senso comico, perché tutte le volte si vede i nazisti nei film, si sente Wagner, e quindi poi i film comici sui nazisti, come per esempio lo sketch dei nazisti dell'Illinois in Blues Brother, poi si sente la cavalcata delle Valchirie quando arrivano loro, perché per tutta questa serie di significati a cascata. E quindi, comunque tutti sono chiari a tutti, evidenti istintivamente. Eh sì, è chiaro, perché quando qualcosa entra poi nella memoria collettiva e si associa poi a un'immagine, no? a un suono, a un'immagine, è fortissima poi la connessione. E quindi anche se uno non sa che è la cavalcata delle Valchirie, poi lo scopre, poi comunque la riconosce. Ci sono appunto questi pezzi che assumono, come si diceva, significati estetici e simbolici altri via via nel tempo, e via via che i mezzi li trasformano, li usano e ne cambiano poi appunto il significato. Bene, basta, la smetto. Sì, andando avanti, andiamo avanti. Un altro pezzo notissimo. Qui si va sull'opera. Sì, qui si va sull'opera, però vediamo solo questo indizio. Opera. Thank you. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè, niente, qui davvero. Applausi. Cioè, sì. Brava. Bene, il topolone. Il topone, topone, come dicono alla barcaccia. Il topone Pavarotti che interpreta il Nessun Dorma, tratto dalla Turandot. Ragazzi, uno qui può non sapere che è la Turandot, però Nessun Dorma, cioè la nonna di sicuro, ce l'avete una nonna, un nonno in casa, l'avete visto? Ce l'avete una nonna. È una nonna, cioè la nonna non c'è verso, non va bene, ha detto il Nessun Dorma, perché cioè, era il pop. Cioè, il nome mio nessun saprà. Questa usata, usatissima, addirittura per le pubblicità la usavano col tema fatto, cioè con la cantata fatta magari con lo strumento. Esatto, cioè nel senso usavano solo il magari e la pubblicità delle calze, mi ricordo, un botto di roba. Film a bestia, usata sempre nei film, dicevamo prima, questa versione qui di Pavarotti in Mare Dentro, usata proprio in, in questa scena di Mare Dentro, mi ricordo il film. Non so neanche che è Mare Dentro, sì, se te lo devo dire. Oh, un film, però non devi far partire, se no. Un film, Mare Dentro e... anche, è uno dei miei film preferiti, ovviamente, trash anni 80, bellissima scena con Jack Nicholson che fa il diavolo nelle streghe di Eastwich, c'è una scena bellissima con tutta con loro, con le tre streghe finalmente liberate, e lui è il diavolo in questa villa, è vero. E lui libera tutti i palloncini e poi Jack Nicholson disteso sul pianoforte, lo spingono, cioè, questo montage buffissimo con Jack Nicholson e le tre streghe, che sono Michelle Pfeiffer, Cher e... e vabbè, insomma, e l'altra poverina che dico, non no, poverina, non è che no, no, se la ricordano perché è un'attrice famosissima, non mi viene, tanto mi viene tra 10 minuti, lo so, quando sono in bagno e niente, quindi insomma io lo collego a quel film lì perché così uno dei film con cui sono cresciuta, però no, insomma, vabbè, è usato, ma ce n'è mille, è una delle arie più famose, abusate veramente della lirica, che abusa sempre delle arie, però questa sì, è veramente una delle più famose, veramente. Bene, andando avanti. Sì, andando avanti abbiamo un altro brano che... Puccini, tra l'altro, scusate, non si è detto di chi è, però... Vabbè, sì, sì, Puccini, lui. Quello lì. Quello delle nostre quel parti. Ragazzo del lago lì. Sì. Va bene. E ora, altra cosa che anche qui ci va un po' di cultura sempre pop, come dire, pop televisiva. Sì, questa soprattutto bestia. Io direi anni 80-90. Quelli cresciuti negli anni 80-90 se la ricordano per forza. Cioè, dopo potremmo avere dei dubbi. Forse no, i ventenni non ci interessano. I millennials, ma tanto a noi che ci frega dei millennials. Ma poi sono ignoranti quelli, ma che stanno su Facebook. Io vorrei trovare un millennials. Ci ascolta. Ma stiano su Facebook. Gli do l'orsacchiotto se lo trovo. Poverini. Va bene, è tutta invidia in realtà. Certo, però, ovvio. Non andava detto. Però. No, però vabbè, io sono una ragazza sincera. E quindi sì, facciamo sentitelo, sentire. Sentitelo. E questo è proprio veramente facile. Thank you. che bello. È molto bello. Quark, era Quark. Ragazzi, cioè... Boh, dai, l'Albertone. Dai, Alberto, cioè qui proprio... No, scusa, l'Albertone. Cioè, io non c'avevo Piero, ma lo sapevo anch'io, perché quello me la facevano vedere uguale. Piero, Angela, il figlio, poi Albertone figlio, dopo. Certo. Ma possiamo perdere. Ma più che altro ne eri Marco Re, ma vabbè. No, ma non questo... entriamo, non entriamo lì. No. Se ne esce, veramente, no, lo dico. No. Cioè, poi riso tutta a memoria. Va bene, Quark. Chi Johann Sebastian Bach. Chi non l'ha riconosciuto, non lo so. Aria sulla quarta corda. Aria, ma secondo me, cioè, ve l'abbiamo lasciata andare e non l'abbiamo sfumato, perché probabilmente tutti si ricordano l'incipit, ma magari non ve lo siete ascoltato, no, tutto. Perché poi sfumava, era lunga la sigla di Quark. Era lunga. In cavolo di diagrammi. Che sì, però non era tutto... Sì, che erano... frattali, era una specie di elettrocardiogramma, però un po' le boh, no, onde, onde in 3D. Vabbè, comunque, bello. Tecnologie avanzate degli anni 80. Sì, psichedelia. Quindi Quark, Bach è uno dei più saccheggiati, davvero, dicevamo, spesso, proprio perché chiaramente strumentale, molto belle e poi molto estraibili, ovviamente, perché chiaramente Bach le puoi un po' anche prendere così in pillole e inserirle. Quindi ci sono tantissime pubblicità, tantissime davvero sigle con sì, questa è la più sì, famosa sì, in Italia, ovviamente. Bene, l'altra volta anche avevamo messo Bach un altro pezzo che era quello che usano sempre per i matrimoni. Neanche mi ricordo qual era. No, era. No. Oddio, ecco, ora mi ha fatto questo, ma io ti lo sapevo di età, lo sapevo. Quello lì. Quella lì. Bene, fatta così proprio, io e la Mari, sì, a cantare. Certo. È così. Belle. Bene, quindi questo, era facile, pochi punti, andiamo avanti. Prossimo. Anche questo abbastanza televisivo. Abbastanza sì, anche molto più breve, perché qui questo, tempo ragazzi, stringe. Sfido chiunque. Cioè, chiunque. Questo veramente anche un sordo. Cioè, eccolo. Signori e signori, benvenuti all'Eurovisione del Wombat. In Wombat Visione. Wombat Visione. I programmi saranno in Wombat Visione. Ragazzi, c'è questo, Tedeum dell'Eurovisione. Ma com'era da Mario? Ma eri morto, se non l'avevi mai sentito, di che eri morto. Anche perché generalmente, almeno a me mi svegliava. Cantavano. Cioè io mi addormentavo davanti alla televisione. Poi siccome, non so se vi ricordate, ma la sigla dell'Eurovisione era non solo... Andava il volume smodato. Sì, ma non era solo all'apertura, era anche la chiusura dei programmi in Eurovisione. Quindi generalmente c'era tipo un programma di musica classica o qualcosa, no? Su cui io mi addormentavo brutalmente, o la partita. Sì, mi addormentavo e poi bam, mi svegliavano queste trombe, di certo. andare a letto invece di rimanere sul divano. Sì, sì, sì, perché è proprio giallo sto pezzo. Sì, era proprio tamarro. E pensate che invece l'origine non è per niente tamarra, perché insomma, un po' di compositore, Charpentier, che comunque un po' giallo era. Sì, beh, era tamarro, come tutti i francesi, però insomma, 1692, ecco, insomma, un personaggio abbastanza... E però usato, lui proprio brutalmente, conosciuto solo per questo pezzo, sì, penso veramente, peggio di, boh, di Mameli. Che ne ha scritta di roba, sì, invece ne ha scritta lui, di roba, anche bella. Va bene, barocco ovviamente, vabbè, quel periodo lì. Comunque lui comunque, veramente da stadio. Da stadio, fate cori di stadio, come dicevi giustamente te, usati, che ora non voglio ripetere perché veramente offensivi. Si scade. Sì, veramente. Bene, quindi questo era veramente non facile. Non c'è da dire altro. No, direi non andiamo oltre e si andiamo chiude. Oltre. Si andiamo chiude la oltre. Wombat Visione. Si chiude, questa era la fine dei programmi Wombat Visione e si prosegue con un altro pezzo di quelli che è diventato veramente l'archetipo di un'immagine, di un momento, cioè veramente diventa tutte le volte che usano, ora lo riconoscerete, lo sentirete, tutte le volte si deve descrivere quella situazione lì, viene usato quel pezzo lì, sempre, in tutto, sempre. Infatti pensate a cosa vi viene in mente mentre lo sentite, le immagini, la sinestesia, pensate alle immagini. Come brava lei, che roba, però ve lo sfumiamo perché sì, dura troppo, che palle, la pimpa deve andare, che infatti. Cioè, vi è venuto ragazzi, da svegliarvi. Ragazzi, allora questo ovviamente, cioè, allora questo è un pezzo che tutti hanno sentito un miliardo di volte, però pochi sanno che cos'è, perché effettivamente non è uno dei compositori più noti, obiettivamente, alle masse, diciamo, no? È un compositore un po'... No, dillo con più disprezzo, alle masse, sì. Alle masse. Perché se c'ho l'anima nazista, come faccio? Cioè, ti piace comunque, Wagner. Hai preso la figlia di Bayreuth, poi ho detto tutta la cosa, no, perché Wagner, capite? In realtà tutti sanno che io sono un palesemente... Aristocratica, si sì, dice. Sì, lo so, non ce la faccio, sono così. Il volgo. Che vuoi fare? Comunque odio le persone. Persone di base, quindi soprattutto il volgo. Amo i dolci, ho delle persone. Scusate, non volevo sembrare veramente una Romanov, però cioè, volevo dire alle masse, nel senso che non è un compositore, cercando di riagguantarmi. Non è un compositore noto ai più, a quelli che magari non studiano la musica classica, va bene, così, che poverini non hanno potuto fare flauto. Quelli lì. Sì, ecco. Sì, sì, annoiamo tutti quanti. E quindi, cos'è il mattino di Grieg? In realtà... se proprio vogliamo guardare il pelo dell'uovo, il pezzo non si, cioè il mattino, ma di un'opera più, più ampia, cioè si conosce sempre come questo pezzo e basta di quest'opera, no? Perché è il più famoso e è proprio perché è stato usato sempre in tanti altri modi, però in realtà noi ci abbiamo fatto un'opera, una puntata su sì, ora lo dico, sul Poro Grieg, non ricordo nemmeno il nome, ci abbiamo fatto una puntata, mi sembra. Però sì, questo è il mattino di Grieg, cioè in realtà il Peer Gynt, non so mai come si dice, Peer Gynt, suite numero 1, opera 46, detta il mattino, appunto, perché appunto descrive questo momento. E questa è la sua condanna, nel senso che questo pezzo è diventato veramente, più di tantissimi altri, il pezzo che descrive il risveglio o comunque il momento no? In cui ci si sveglia o i personaggi si risvegliano, in sempre. Cioè è diventato una leitmotiv, cioè ha assunto proprio... Uccellini, in genere c'è anche un po' di sottofondo, un po' di uccellini. Cioè in tutti i film, in tutti i cartoni animati, in tutte le pubblicità, per descrivere musicalmente il tema del risveglio in ogni film viene usato questo pezzo, sempre. Quindi è stato estrapolato proprio dal suo contesto nell'opera ed è diventato, nell'opera appunto del suo autore, del suo compositore, ed è diventato il pezzo del risveglio il mattino. E poi appunto sanno che è un pezzo di Grieg il mattino. Addirittura c'è proprio i CD di atmosfera, no? I CD, quelli per rilassarsi. C'è sempre questo. Cioè questa proprio sì, è... Sì, sì, ci siamo tutti molto più sereni quando ci ascoltiamo il mattino di Grieg. E questo è appunto... Perché è abbastanza effettivamente descrittivo come pezzo. Cioè effettivamente ti fa pensare, insomma, no? C'è tutto questo salire, questo crescendo, no? Molto bello, molto così, molto bucolico. Bene, quindi andate a risentirvi la puntata su Grieg, non vi sto a rifare tutto pippone su Grieg di quando, come, perché. Allora ci mancano due pezzi, siamo quasi cavalcata. Siamo a fine, ragazzi, si vede la fine. Di sicuro un pezzo, poi l'ultimo vediamo, abbiamo deciso che non si sa, si mette, non si mette. Sì, si mette, ma non è detto che ve lo facciamo sorbire tutto. Vabbè. Quindi, insomma, prossimo pezzo, un pochino più difficile, forse, questo è quello meno, che c'ha forse meno riconoscibile, cioè l'avete risentito, però magari non c'ha proprio un'immagine agganciata immediata, anche se questo è stato usatissimo veramente, soprattutto nelle pubblicità, però magari non è proprio immediato, io per esempio non lo riconosco sempre. Ecco. Provate voi. Sono abbassata a livello di comuni mortali. Poi, cioè, si è visto che era finta, questa cosa. L'ho detto, tanto non ci crede nessuno. No, infatti. Provate, va? Poveri mortali, provate. Basta. Ragazzi, questa è rotto il cazzo, questa è proprio, questa è proprio... Ah, basta. Sì. Sì. No, guarda, la lascio sotto, Senti. Sì, questa, ecco, tan, è un po' tan, tappeto. Tan, tan. Allora, va bene, Beethoven, che già, insomma, siamo nella tristezza. Beethoven, sonata a chiar di luna. Quindi... Già, il titolo dice tutto, perché insomma, sonata al chiar di luna, Beethoven non era proprio un cuor contento, per cui di base, insomma, è più che legata a una cosa in particolare, cioè più che qui quando la sento non penso magari a una pubblicità in particolare, anche se macchine, più, insomma tanti altri prodotti. In di base è, si diceva, la musica associata alla tristezza, ma quella tristezza proprio, quella melancolia romantica, sì, quella che proprio quando lui lascia lei o lei lascia lui e lui rimane da solo sulla panchina del treno, o anche treno. Tipo tipicamente, no, cioè ci si dà l'appuntamento e poi lui non viene o lei non viene, e sotto c'è quella musica e lì. Te avevi abbandonato tutto per lui, e io sì. La sento spesso, infatti. Certo, sentita spesso, sì, ma perché te la suonano, certo. Sì. A me sì, perché quando succede poi c'è l'orchestra però, dietro, io la vedo poi, oppure anche il cane abbandonato sull'autostrada. Sì. Cioè è proprio la musica, quella proprio dell'aiuto, cioè qui proprio tristezza. E quindi poi giustamente diceva la Mari, è ribaltata nel comico, perché poi tutti i film trash comici, quando c'è la scena una plastra spuntata, non so, quando c'è le scene tipo finte tristi, e poi parte questa, perché certo, automaticamente ormai è associata a quella cosa lì. Sì, ragazzi, è così. Quindi magari uno non sa che è Beethoven, sono a Chiar di Luna, però insomma, ecco, l'ha sentita e risentita, e questa in particolare è proprio una di quelle atmosferiche, cioè proprio una di quelle che rappresentano più un sentimento che proprio un prodotto, magari, no? Sì. Ecco, sì. Perché veramente bene. Basta, guarda, la stoppo proprio. Avanti, basta. Perché veramente mi ispira al suicidio. Chiudiamo in bellezza, allora. Sì, grazie. Oggi veramente Arancia Meccanica, siamo andate a 3.000. Grazie, perché Beethoven mi aveva proprio messo male. Sì, chiudiamo con un ripiglio, dai, sì, perché comunque questa tira un po' su. A me mi ha sempre fatto un po' ossessivo compulsivo, però insomma... Ma è bella. Sì, ossessiva, certo, Perché tra l'altro io vorrei fare una piccola dedica assolutamente individualistica e privatistica, certo, per un uso privatistico della radio, sì, e la volevo dedicare alla mia amica Wendy, perché so che gli piace tanto e la mette a chiusura delle DJ set, generalmente. Tra l'altro questa la riconoscerete perché l'abbiamo già sentita per altre trasmissioni, insomma, ecco, spesso alla Fuga del Gatto l'abbiamo già fatta sentire. E comunque questo in generale, questo l'abbiamo fatto addirittura per i pezzi, una volta parlando dei pezzi poi usati nella musica pop, cioè questo è un pezzo che è stato poi riproposto, anche proprio suonato con strumenti elettronici, sì. Cioè è proprio un pezzo che... Chissà come mai poi. Si presta. Il compositore è particolarmente uno di quelli che è riuscito poi a... così a passare nei secoli. Ma allora senti un po' la semplicità, no, dei temi, però efficace, insomma, semplicità. Ti propongo questa cosa, cioè ti propongo una cosa. Siccome è l'ultimo pezzo, va bene, e dura tanto, Lo diciamo prima sì, dai, e poi lo lasciamo andare come ultimo pezzo. Va bene, sì. Questo qui è il Bolero di Ravel. Eccolo. E direi che ora quando lo sentite lo riconoscete. Magari non sapevate si chiamava il Bolero di Ravel. Dai, ve lo ricordate. Sì, è tutto così. Cioè poi chiaramente si aggiungono gli strumenti, è proprio un crescendo. E questo, ragazzi, ovunque, cioè veramente ovunque. Addirittura ci abbiamo fatto la puntata su Allegro ma non troppo, il cartone animato che l'aveva animata questa parte, molto bellino, con l'evoluzione degli animali, con la terra ripopolata. È vero. Dalla bottiglia di Coca-Cola. Quindi è stato proprio animato, è stato... in generale è una marcia, per cui tutte le volte che c'è anche un po' un senso di marcia, di movimento, viene riportato, viene usato un po' per sempre, questo per le pubblicità, davvero tante volte nella pubblicità, perché c'ha questo senso proprio di andante, proprio di continuo, questo flusso non si potrebbe essere, cioè non so, non l'hanno mai usato, ma non capisco perché, cioè i coniglietti della Duracell, secondo me no, ci sarebbe stato benissimo, esatto, no? Sì, perché c'avevano un altro, i coniglietti della Duracell, sì, forse un altro pezzo. E però usato, ora non mi viene proprio la pubblicità precisa, però mille volte veramente. Sì, mille film, mille cose. Ecco, nei film, sì. Quando c'è sempre una marcia, quasi sempre, appunto, sia militare piuttosto che... mi vengono in mente Lemmings, ma perché io ho una visione un po' focalittica. Sì, e poi è stato ripreso, riusato nella musica rock anche, quindi... Sì. Che si è proprio sdoganato, in generale, appunto, quando c'è questo senso, appunto, della marcia, del continuo, ecco, è stato usato tantissimo. Io mi ricordo, forse, una pubblicità della macchina, addirittura, insomma, chissà, ecco. Chissà. Bene. Allora, quindi, a questo punto io direi che ve lo facciamo ascoltare, sì. E vi lasciamo però sfumando con questo pezzo e dandovi appuntamento quindi a domenica prossima. Sì. Vi ricordo, non l'abbiamo ancora fatto in chiusura, ve li ricordo i nostri Wombat contatti, i social Wombat, il sito wombat.noblogs.org, la casella di posta postawombat@insiberia.net e poi la nostra frequenza sulle onde mediocri 1359 AM o MW se siete con una radio anglofona. Bene, ultima chiusa, cinematografica, leggevo negli appunti che me l'ero scordato, il regista addirittura Claude Lelouch dedicò un film Bolero appunto nel 1981 che ha come tema anche principale la musica e in questo pezzo, quindi addirittura proprio pezzi dedicati, a, insomma film dedicati a questo pezzo. Interamente. Quindi insomma, ecco, e qui vi abbandono e vi libero veramente, andate in pace, ci salutiamo e bene, ci ritroviamo la prossima domenica, prossima domenica sempre intorno alle 6 sempre su Radio Wombat ovviamente, ciao ciao ciao a tutti.